Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oh, un po' in ritardo l'ho detto, K-pa, perché ormai non ce la faccio più. Perché dobbiamo farlo con K e con A. Ecco. I voli no kids, no, ne abbiamo già parlato. Siamo in vacanza, no? Tutti sono in vacanza, prendono gli aerei e c'è tanta gente che non sopporta di avere i bambini sull'aereo. L'abbiamo già detto mille volte. Sì, infatti, quindi stanno facendo le compagnie aeree, stanno facendo i voli no kids, cioè i voli solo per adulti. Vabbè. E quindi è lì io so che vige la regola del sesso. Ma quale sesso? In aereo? Il sesso, Drago, come in aereo? Tu non lo sai che a grandi altezze. Ma sì, qualcuno ha provato, qualcuno vuole farlo per poterlo dire, però insomma sarà uguale in treno, che farlo a basse altezze. In treno cosa? In treno è peggio, Drago. Se trovi un bambino inferocito, dovrebbero pensare ai viaggi in treno no kids. Treni per adulti, dove si pratica il sesso. Come? In treno, Drago, che è un classico. Ma in come treno. Un classico? C'è sesso tutta la vibrazione dunga dunga dunga, che non è dunga. Ma è un classico dunga. Per chi ho mai fatto, però voglio dire. Drago, ma come? Il treno che entra nella galleria, dai, tutta la simbologia hollywoodiana. Cosa c'entra adesso il treno che entra nella galleria? C'entra, dai, Tito, guarda che c'entra. Allora. È che lui, poveretto. Che vorrebbe, in treno, non in treno. Comunque, torniamo a bomba sui bambini in aereo, perché la rubrica Le Regole di internazionale della settimana scorsa era dedicata proprio alle regole in aereo con i bambini. Ok. Capito? Regole da seguire per riuscire a volare con i bambini senza subire troppi traumi, anzi a volte anche guadagnandoci un po'. Vabbè, sentiamolo. Allora, regola numero uno. I vantaggi cominciano a terra, perché se hai dei bambini puoi saltare la fila del check-in. Questo capito? È vero? Sì, puoi pretendere l'imbarco prioritario. Devono essere bambini piccoli, ma ce la fai. Regola numero due: scusati preventivamente con tutti i vicini d'aereo. Giusto, capito? Sì. Quelli seduti avanti e dietro. Se è il caso, distribuisci bottiglie di vino. Tipo, non so, del Barolo. Capito. Ma scusa, ma quale vino? Drago, è umorismo all'inglese questo. Ho detto anche Barolo, c'era la battuta regionale. Non hai capito niente. Non si capisce. Va bene, vino, allora. Regola numero 3. Non fidarti della TV di bordo. Portati il tuo lettore DVD. Non fidarti della TV di bordo. Portati il tuo lettore DVD. Ho sentito anche di ripetermi la frase. Beh, capo. Il fatto è che non ho capito nemmeno questa. Non ho capito il senso. Non è che non ho capito. Minimo di ironia, no? Cosa vuol dire? Bambini in aereo. Se il film non gli piace, disturbano. Quindi è meglio. Dai. Capito poco, comunque vai avanti. Dai. Regola numero 4. I cioccolatini non sono mai abbastanza. Ma quali cioccolatini? Ma qua non si capisce niente. Non si è mai parlato di cioccolatini fino adesso. I cioccolatini. Cioè, dove li tira fuori? Regola numero 5. Se piange tua figlia va bene, se piangi tu no. Ma Drago, ma neanche uno ti fa ridere. No, non fa ridere, anzi mi fa vomitare. E il sacchettino è lì, nella tasca del sedile davanti. Stop your feet! Alla fine tu i lampascioni, dopo tutto il can can che ha fatto il bambino Alberto col video, la canzone eccetera, li hai mai assaggiati poi? Dopo quel momento no, lì? Dopo quel momento nemmeno lì. Io e non si trovano però in compenso sulla home page del sito di Radio 24 per qualche ora, forse per qualche giorno, è campeggiata una news che in mezzo alle altre si faceva notare, perché appunto diceva: nuovo singolo del bambino Alberto, lampascione, link al video eccetera eccetera. Quindi la parola lampascione, scritta pure maiuscola, faceva il suo esordio assoluto nella home page di un sito serio, o che dovrebbe essere serio, come quello di Radio 24. Magari tu pensa che, non so, che la bambina Emma, no? Era lì per navigare un po' sul sito di Radio 24, vede questo link e tac, guarda il video. Ma la bambina Emma, tu vuoi dire quella bambina Emma? Eh sì, la titolare qui della fazienda, no? La bambina Marcegaglia. Alle prese con il lampascione. No, ma dai, non me la vedo. Perché no? Scusa, no, consiglio d'amministrazione, si mettono lì e per un minutino o qualcosa di più si fanno quattro risate con lampascione, no? Fanno click e... La passione. grande successo del canale YouTube di Barlumen, che ospita come sì, grande successo, ospita tutti insieme i video del bambino Alberto, tutti sono, dal c'è primo Finocchi Cotti, c'è Non correre papà, l'Orfanello, adesso c'è Se per voi non c'è problema, poi naturalmente c'è Lampascione. Certo, noi stiamo cercando di capire quale sarà il tema della prossima canzone del bambino Alberto, ma lui si protegge dietro un muro di silenzio. Purtroppo sì, bambino Alberto. Bambino Alberto, di cosa parlerà la tua prossima canzone? Qui però c'è l'imbarazzo del silenzio radiofonico. Come potete sentire, il tema della prossima canzone del bambino Alberto è ancora un segreto. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Eyeballing, adesso bisogna segnarsi questa parola nuova perché è l'ultima frontiera dell'extreme drinking, qui è tutta roba inglese. Allora, tu ti ricordi che mesi fa si era parlato del balconing? Come no? Che era quella pratica bellissima di Ibiza in cui la gente si buttava dal balcone nella piscina dell'albergo, o anche su un altro balcone facevano insomma, o anche salti sul marciapiede, insomma, dipende da quanto erano ubriachi. Adesso per ubriacarsi e fare il balconing però non si beve più l'alcol, ma si versa l'alcol negli occhi come se fosse un collirio. Certo, perché fa più effetto, cioè, ma come fa, si più assorbe effetto? Subito, ma ti bruci la retina, se cioè fa malissimo, se ti fai le pere di alcol, capito, nella direttamente vena, endovena, l'occhio è una roba così. Sì, però guarda che questa qui è una pratica veramente dannosissima, che è nata in Francia, si è diffusa chiaramente in Gran Bretagna a ritmo vertiginoso e sta sbarcando anche qui in Italia. Però i giovani, come al solito, non sanno niente. Bisogna spiegargli tutto, non sanno a che rischi vanno incontro. Vabbè, adesso glielo spieghi tu. Glielo spiego io, perché se ubriacarsi fa male, cari ragazzi, assorbire superalcolici dagli occhi, che è una roba che mi sembra anche una cretinata da dire, può rendere ciechi in modo definitivo. Vabbè, ma ciechi, ma intanto assorbi prima l'alcol, hai capito? No, comunque abbiamo un ospite che te lo può spiegare. Può spiegare che è un falso mito questo dell'ubriacatura attraverso gli occhi. E certamente i ragazzini pensano che assorbire l'alcol dalla mucosa oculare porti allo sballo immediato in funzione della vicinanza col cervello dell'oculare, capisci? C'è l'oculare vicino al cervello. Ma questa è una favola. Spiega un famoso gastroenterologo dell'Istituto Superiore di Sanità che abbiamo qui in carne e ossa. Buongiorno. Di solito per ubriacarsi, ragazzi, bevono 5, 6, 7, 8 bicchieri di bevanda alcolica di tanti tipi. Sì. Una quantità che è impossibile far passare dall'occhio. Ma, perché 8, 5, 6 bicchieri dentro l'occhio. Voglio vedere dentro l'occhio. In realtà i giovani fanno eyeballing quando già stanno tutti ubriachi. Ma io non ho capito una cosa, professore. I giovani si versano 5, 6 bicchieri di whisky negli occhi. E che te devo dire? È tutto un casino, ormai la vita è tutta così. La gente si butta dai balconi con i bicchieri negli occhi. È tutta una cosa che non si capisce. È tutto un casino totale. Sì, ma ci mancavano pure gli imbriachi che bevono con gli occhi. Ma ho capito. Ma dica gli occhi sono fatte per occhieggiare. Come occhieggiare? Vedi una bella guagliona, tu fai con gli occhi. La occhia. Guarda, si dice anche la uocchia. Che uocchia? No, non si non dice, mai ma sentito non dire. Non l'ho inventato adesso. Professore, effettivamente... Si dice la uocchia. Ho capito. Perché con l'uocchia tu guardi la bella ragazza. La bella uocchia. La whisky dentro la uocchia. Ma in effetti... Anche se però non coccia da rumma dentro la uocchia, ma fare babura. No, ma come, professore? Vede che c'ho la pupilla. Ma no, ma non nell'occhio. C'ho la pupilla un po' dentro l'uocchio. Ma proprio c'è lei. La pupilla, perché l'uocchio c'ha la pupilla. Se la pupilla lati, è nera. La di lati ci mette lo whisky, lei assorbe e tutto sente un po' meglio e riesce ad affrontare questa vita di stenti con un sorriso. Ma capisci? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Yeah, papa. L'uocchio. Sono andato in maggiore perché non la conosco. Scusa. Mi scusi.